avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Mentre fatale, son beau visage sto parlando, tengo l'occhio fisso al mio profilo Facebook come mai faccio da anni. Questa operazione, che per me ormai è normalissima, penso che sia il banale e quotidiano impegno delle tante persone che comprano apposta uno smartphone per osservare lo status del proprio profilo, rispondere ai messaggi, occhieggiare, provo a noleggiare, fare tutto quello che si fa con un profilo Facebook. Giorni fa ci siamo intrattenuti sul fatto che attraverso la rete, giorni fa, ieri, attraverso la rete si stabiliva un contatto che ha determinato in parte i disordini di cui abbiamo parlato nella giornata di sabato a Roma, per un coordinamento in rete di gruppi anarco-insurrezionalisti, ma allo stesso tempo in rete sorge un movimento contrario di persone che pubblicano, analizzano le loro foto fatte durante la manifestazione di sabato per dare un volto a coloro che hanno disturbato la manifestazione, hanno dato un segno totalmente opposto a quello che doveva essere un moto di protesta di piazza pacifico. Questo dimostra in parte che tutti noi, anche se in fondo non ne siamo consapevoli, stiamo colmando notevolmente il digital divide, ci stiamo incamminando ad essere a tutti gli effetti cittadini della contemporaneità digitale, anche se questo in fondo non ce ne rendiamo conto, perché anche l'Umarel, che con in mano il suo smartphone comunque manda un messaggino alla propria moglie per comunicarle che ha fatto la spesa, è una persona che comunque usa certi strumenti. Esiste invece un luogo comune, soprattutto di segno istituzionale, che ci vuole ancora come un popolo da educare, da alfabetizzare. Gli italiani hanno una scarsa attitudine con gli strumenti informatici, gli italiani non sanno cosa sia bene internet, bisogna insegnare agli italiani a frequentare la rete, oppure altri termini, il popolo della rete, coloro che frequentano la rete, i blogger, gli internauti. Ecco, da un po' di tempo noi stiamo ribadendo questa trasmissione che ormai la rete è entrata perlomeno in una contaminazione di genere nell'uso comune di tutti. Tutti sappiamo cosa sia. Più o meno viene usata in ogni casa, in ogni famiglia c'è uno strumento di connessione. Che poi la situazione delle connessioni, la situazione degli internet provider in Italia abbia molta strada da fare rispetto ad altri paesi, è vero. Però oggi faremo il punto di quanto voi siete, avete familiarità con gli strumenti per muovervi in rete. Quanto voi ormai considerate la rete come un utility necessario, indispensabile, ma nemmeno troppo evidente, come la mattina vi alzate, accendete l'interruttore della luce, aprite il rubinetto dell'acqua, sapete che siete connessi. Questa è la nostra impressione. 800240024. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Andrea è professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, docente di informatica giuridica. Con Andrea spesso ci intratteniamo in questo spazio proprio sui problemi relativi al mondo digitale. Ecco, riguardo a quello che ho detto, riguardo l'analisi di alcuni fenomeni ultimi, riguardo proprio l'uso degli strumenti per connettersi in rete e l'uso della rete come grande serbatoio di strumenti per lavorare, per vivere, per giocare, per innamorarsi, dicendo, tu cosa hai da aggiungere a quello che ho detto? Bah, praticamente niente, perché quello che hai detto tu è perfetto, nel senso che ormai le persone usano la rete come un semplice strumento che fa parte della loro vita, insomma. Non c'è più una differenza tra mondo reale, quello che ancora alcuni chiamano mondo virtuale, le persone, così come c'è il telefono, ecco, come strumento della quotidianità, così c'è la rete in varie modalità, ovviamente dal computer al tablet allo smartphone. I dati di questo rapporto che stiamo vedendo sull'uso dei nuovi media realizzato per lo IAB recentemente mostra come ad esempio anche moltissime persone si connettono via mobile, insomma, con strumenti non da casa, diciamo, mentre sono proprio in mobilità alla rete, un dato completamente nuovo rispetto semplicemente qualche anno fa. E soprattutto sono molto interessanti i dati che riguardano La media delle persone che accedono mensilmente a internet, perché ormai abbiamo superato i 25 milioni. C'è ancora un digital divide notevole, come dicevamo prima mentre parlavamo tra di noi, rispetto agli altri stati europei, però effettivamente ci stiamo avvicinando a livelli che sono di tutto rispetto. Insomma, internet fa parte della nostra vita. Ecco, quanto è cambiato secondo te il rapporto con la rete con l'avvento dei social network? I social network secondo me hanno dato una radicale sterzata all'uso consueto della rete. Il social network è diventato lo strumento di connessione, è stato il sostituto di ogni altro contenitore di relazioni, e gli italiani sappiamo che in questo sono diventati frequentatori di punta di questo strumento in maniera del tutto inspiegabile. Sì, sì, come vedevamo qualche tempo fa, effettivamente Facebook ha avuto la funzione di quella che in informatica si chiama killer application, no? Perché molte persone sono avvicinate alla rete in Italia per poter usare Facebook. Qui dati specifici non ne ho, però insomma si narrano leggende un po' metropolitane di persone che vanno a comprare un computer, e la domanda che fanno al commesso non è il tipo di computer che stanno usando, il tipo di connessione, ma dicono: ma con questo io posso connettermi a Facebook? Effettivamente Facebook ha avuto una funzione incredibile di volano negli ultimi 2 anni per l'uso quotidiano proprio della tecnologia, che è quello che a noi interessa, no? Perché ha integrato e semplificato tutta una serie di funzioni che venivano appoggiate a vari software o varie applicazioni. Sì, è tutto sommato intuitivo. E poi nel complesso anche le persone non hanno questa ansia di privacy che sembra invece abbiano spesso le istituzioni. Le persone sembrano disposte a concedere alla visione degli altri molto della loro vita, se non tutto. Ecco, il rapporto che ha citato Andrea Rossetti, il rapporto dello IAB Forum, ha un termine fantastico, trovo, al suo interno, su cui perna tutta la ricerca, una ricerca sui consumi, anche sugli investimenti che vengono fatti in Italia sulla rete. Il new normal, una novità diventata normale. Laila Pavone, buongiorno. Buongiorno. Laila Pavone è l'amministratore delegato di Isobar, ma anche presidente onorario di IAB, e questa mattina ci dà una mano a interpretare i dati di questo rapporto. Il nuovo normale cosa significa? Significa che ormai l'uso della rete, come stiamo dicendo noi, non è più un'eccentricità, non appartiene più a una classe ristretta di persone, è entrata nella normalità, proprio perché è diventato un supporto valido per vivere meglio, non tanto per fare affari o per ampliare il proprio orizzonte di sapere, ma anche semplicemente per tenersi in contatto con tante persone. Il titolo che abbiamo dato a questa manifestazione che si svolge tutti gli anni a Milano e che fa un pochino lo stato dell'arte di quegli stati generali dello sviluppo di internet in Italia, sia dal punto di vista della crescita dell'audience, come avete citato prima, no? Stiamo parlando di 26 milioni di italiani, sia dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista del comportamento delle aziende in relazione proprio alla rete. L'abbiamo chiamato New Normal perché non è più il caso di parlare di rivoluzione. Per tanti anni abbiamo parlato di questa fantastica rivoluzione che effettivamente internet è stata ed è il passato ormai. New normal significa che, come dicevi tu Gianluca, internet ormai è nelle case di tutti gli italiani e non si può più farne a meno. Questo significa poi, d'altro canto, per le aziende riuscire a costruire una relazione completamente diversa dai mezzi tradizionali, proprio per il fatto che c'è la possibilità proprio di avere un rapporto che le persone chiedono normalmente, non solo nel momento in cui si mettono in relazione con amici, parenti, avete citato Facebook, ma anche nel momento in cui chiedono alle aziende, molto spesso pretendono dalle aziende una risposta. Addirittura oggi siamo nella situazione in cui normalmente le persone vogliono contribuire, vogliono collaborare, vogliono costruire insieme alle aziende i prodotti. Anche di questo abbiamo parlato in questa manifestazione, dove facciamo anche un po' il punto sul mercato degli investimenti pubblicitari, e da questo punto di vista internet sta crescendo moltissimo. Soprattutto è un ambiente, un luogo che sta contaminando tutta l'umanità nazionale, in cui sembra che il bersaglio dell'azienda è automaticamente, spontaneamente indotto a dare le informazioni su di sé, che è una cosa rarissima normalmente. Ci si è parlato per anni del problema della profilatura degli utenti, la necessità di mettere i cookie, di definire i percorsi. Ma oggi le persone non chiedono di meglio che raccontare tutto di loro. Sì, c'è una tematica che è legata anzitutto alla trasparenza. Nel momento in cui le aziende capiscono che la condizione di base che chiedono vedono le persone, è un rapporto di fiducia in sostanza, no? E questo fa parte della vita di tutti noi, e così vale anche per le aziende. Se dalle aziende riesco ad ottenere un comportamento che è legato al considerarmi al pari suo, io che compro un prodotto sono sicuramente il primo cliente dell'azienda, e l'azienda oggi ne è consapevole. Allora, da questo punto di vista, le persone, noi, perché poi stiamo parlando di noi individui, non hanno grossi problemi nel fornire informazioni sulla loro vita, sulle loro abitudini, su che cosa effettivamente poi desiderano, sognano, lo chiedono alle aziende. Normalmente noi compriamo i prodotti, non dobbiamo fare come dire di questo fatto una cosa alternativa rispetto alla nostra vita quotidiana. Ed è per questo che il problema della privacy, che è sicuramente importante, ma deve essere trattato con le logiche legate proprio alla tutela dei dati personali, quelli che non cederemmo a nessuno, ma nemmeno alla banca, come dire, che forse è uno dei nostri partner più vicini. Su tutto il resto siamo veramente molto disponibili. Devo sottolineare un'altra cosa però, Gianluca, che quando parliamo di dati e quando parliamo di aziende che trattano questi dati, dobbiamo sempre tener conto che l'azienda ha bisogno di capire come si comporta un campione di utenti, non ha mai bisogno di entrare nel merito, nella fattispecie del nome o del cognome di una persona, ha bisogno di capire quali sono le tendenze, i comportamenti di un gruppo di persone, e da questo punto di vista la tutela, a maggior ragione, è garantita. 800 24 00 24, e voi che ci ascoltate, voi che spesso intervenite, voi che avete un rapporto costante tra lo strumento radiofonico e la rete, che usate come luogo in cui leggete l'anticipazione del programma, in cui partecipate, mi date un feedback costante, quotidiano, mi piacerebbe capire come intendete questo cambio, come intendete questa nuova normalità che è una grande conquista. Vi sentite normalmente collegati alla rete? Sentite la rete come qualcosa che fa parte della vostra quotidiana normalità, o ancora considerate un'eccentricità, un punto di diversità rispetto alla massa? Enrico Giovannini, buongiorno. Buongiorno. Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, è in questi giorni stato molto presente perché ha fatto quella che lui definisce la più grande operazione internet in Italia, probabilmente l'ultimo censimento degli italiani. Ha avuto la possibilità di mandare la propria cartella con i dati familiari attraverso la rete. La prima domenica in cui gli italiani hanno potuto usare questo servizio si è ingolfata la rete, quindi anche l'Istat probabilmente si è resa conto che questa normalità è diventata più normale di quello che uno potesse prevedere, Presidente? In realtà non è tanto questo, perché noi abbiamo svolto anche due rilevazioni, una ai primi di settembre e una ai primi di ottobre, chiedendo agli italiani se intendevano utilizzare internet per la compilazione del modulo, e il 30% ci hanno risposto di sì. Quindi noi avevamo tarato i server gestiti da Telecom Italia in maniera tale da immaginare che in una settimana gli internauti italiani avrebbero compilato tutti il modello. Parliamo di circa 6 milioni e mezzo di famiglie, quindi un flusso di 1 milione al giorno. Il primo giorno in realtà c'è stato anche un picco di circa 1 milione all'ora, che naturalmente ha intasato i server che erano stati predisposti. Questo problema è durato poche ore in realtà, ma questo è stato sufficiente a far partire naturalmente su Twitter e sui social network le critiche degli internauti italiani. Adesso in una settimana abbiamo censito attraverso internet quasi 4 milioni di persone, abbiamo ricevuto i questionari di oltre 4 milioni di persone, un risultato appunto assolutamente straordinario. Ecco, a parte il censimento, ora sta procedendo, ormai è passata l'emergenza di cui tutti abbiamo parlato, abbiamo riflettuto, l'Istat sta ricalibrando un'idea, un punto, un'idea sulla reale frequentazione degli italiani della cultura digitale in generale, senza entrare nello specifico, cioè che ormai fa parte della loro quotidiana normalità avere una connessione attraverso cui poi fanno varie operazioni, socializzano, comprano, vendono, si informano, si relazionano, appagano le loro curiosità. Voi a che punto eravate nella fotografia che avete fatto, l'ultima fotografia degli italiani riguardo l'uso degli italiani della rete, o perlomeno degli strumenti informatici di compartecipazione? Beh, noi a dicembre del 2019 2010 abbiamo dato i dati relativi a febbraio, quindi con grande rapidità, che ci dicevano che la quota di famiglie che possedeva un personal computer era salita di quasi 3 punti, dal 54,3 al 57% in un anno, e l'accesso a internet di 5 punti, dal 47 al 52. Perché è vero che queste percentuali stanno crescendo molto, ma non possiamo dimenticare che ci sono purtroppo aree del paese, sia di carattere diciamo demografico sia territoriale, che sono molto più indietro. Non dobbiamo dimenticare cioè che per le famiglie con più di 60 anni ancora siamo a percentuali del 30% o inferiori, molto inferiori nell'uso del personal computer, e sull'uso di internet soltanto fino ai 54 anni abbiamo una percentuale superiore al 50%, mentre invece poi abbiamo una riduzione forte. E dobbiamo ricordare che molte persone anziane, per fortuna, vivono in Italia, e anzi l'invecchiamento è molto elevato, quindi purtroppo non ancora tutti sono in grado di fare questa operazione. Sentiamo il primo ascoltatore, Presidente, così cominciamo a sentire anche la voce del pubblico. Mi rendo conto che questa trasmissione risulta più tecnica rispetto alla consuetudine, ma serviva questa mattina dare qualche dato e ragionare sulle cifre. Poi ogni giorno noi usiamo la rete come grande strumento di collaborazione e di comunicazione con il nostro pubblico. Marco da Bergamo, buongiorno. Salve, grazie per avermi chiamato. Senta, desideravo che lei prendesse in considerazione il pericolo che da parte degli utenti si può irrorare nella rete, tenendo presente che nel mondo vi sono, lei si ricorderà un libro di molti anni fa, sui persuasori occulti, un libro che fece scalpore perché si dimostrò come il semplice colore nell'involucro della pasta, azzurro o quindi lei giallo, teme di essere condizionato attraverso gli strumenti di rete nelle sue scelte. Allora, per quanto riguarda, diciamo, definiamola così, internet. Ma perché pericolo è la prima parola che le viene in mente? Se io parlo di rete, la prima parola che viene in mente è pericolo. Guarda che è una lettura un po' antiquata, considerare la rete per i suoi pericoli. In rete ci sono i pirati informatici, in rete ci sono i pedofili, in rete... consideriamo per il lato positivo che poi, come dire, la vita è un disastro perché scippano le vecchiette per strada. Sì, è vero, è innegabile il dato, ma c'è un insieme di ragioni per cui vale la pena vivere, secondo me. In mano chi detiene il potere economico può utilizzare. Lei immagini che cosa è successo in Tunisia ultimamente per questo passaggio di comunicazioni, di informazioni da una bocca all'altra e via dicendo. Io dico, guardi, sto facendo il cattivo e quindi lei perdonerà se dico figurati, io amo i cattivi. Magari non sono vere. Chi beneficia dei fermenti che ci sono nel mondo islamico e nel Corno d'Africa è Israele. Ora, chi mi dice adesso? Ma adesso che c'entra con la rete? No, scusi, io non voglio censurare il suo parere, ma noi stiamo parlando degli italiani e il loro rapporto con la rete. Adesso lei mi fa un discorso di, anche interessante se vuole, ma di poteri occulti, di circolazione. Tutte queste cose se ne parla dal tempo dei protocolli, le savie anziane di Sion, in cui non esisteva la rete e si parlava di complotti segreti nascosti quando esisteva soltanto la carta stampata. Riveda un pochino il suo punto di vista, non in generale sulle sue convinzioni, ma su quello che oggi rappresenta la rete. Andrea da Vicenza. Sì, ciao, buongiorno. Vediamo se riusciamo a ricentrare un po' il problema. No, io volevo solo dire una cosa molto veloce. Effettivamente a me mi preoccupa molto meno il problema della privacy che non il problema della libertà, diciamo, della rete, no? Visto tutti i tentativi di, diciamo, un po' di imbavagliare, di... Sì, qualcuno ogni tanto ci prova, ma ci provano, è un po' difficile farlo in generale per la sua struttura stessa, la rete difficilmente imbavagliare. Però una cosa, io sono circa 10 anni che faccio telelavoro, diciamo, no? Grazie a internet. Sì. E onestamente sono proprio, quando sento parlare di queste cose sono proprio preoccupato del fatto che non vorrei mai tornare, diciamo, a fare la vita che facevo prima, quindi muovermi con la macchina adesso lavorando come nemmeno io vorrei tornare a avere l'acciarino per accendere il fuoco e scaldare la mia famiglia. Però sa, ci si preoccupa in questi casi, no? più di questo che non della privacy, cioè io proprio terrore. Ma lei conferma i dati che ci ha dato Laila Pavone? Nessuno si preoccupa di consegnare alcuni dati che non considera particolarmente sensibili, se ciò gli permette di avere un servizio migliore. Ci fermiamo un istante, diamo la linea alle informazioni della borsa, continuiamo fra qualche minuto. 800 24 00 24. Vedo un po' di confusione quando vi chiamo a chiamare in termini concreti, reali e precisi sulla vostra frequentazione della rete. Telefonano quelli per cui la rete è ancora qualcosa di alieno, lontano, qualcosa da temere. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. 800 24 00 24. Il tema è oggi gli italiani e la rete. Gli italiani e la rete, che l'ultimo rapporto IAB Forum definisce una novità diventata normale. E in questo siamo anche noi perfettamente d'accordo, come la rete faccia parte della normalità. Dovremmo mai considerare globalmente una delle tante maniere che ha un essere umano per esprimersi, un diritto naturale, qualcosa di cui non si può fare a meno. Però è significativa la telefonata di Mauro da Milano. Mauro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ecco, io lavoro per una grande azienda di telecomunicazioni, di cui non fare il nome. Un'azienda di comunicazione? Telecomunicazioni, sì. Esatto, quindi noi gestiamo più che altro internet e servizi telefonici. E, io ho a che fare tutti i giorni con clienti che spesso per le condizioni economiche attuali devono rinunciare a parecchie cose, ma a una cosa non rinunciano assolutamente. E sono i servizi internet più che i servizi telefonici. Cioè, io ho situazioni in cui ho clienti che hanno perso il lavoro, devono mantenere una famiglia con due figli, praticamente non hanno neanche soldi per mangiare, ma a internet non rinunciano. E lei questo lo trova singolare? Io sono perfettamente d'accordo. Anch'io, se avessi pochissimi soldi, avessi problemi di mantenimento della famiglia, mangerei pane e patate, ma terrei la rete, lo troverei più importante. Esatto, anche perché ormai viene vista come un'estensione del, diciamo, del la rete può dare delle chance di risalire la china, di ritrovare un lavoro, comunque di crearsi delle attività. Il cibo basilare alla fine si può trovare anche a buon mercato, e questo è il problema. Io non mi scandalizza molto questa cosa qui, anzi lo trovo molto coerente, lo trovo intelligente usare le poche risorse per mantenere aperto un canale con il mondo. Enrico Giovannini è presidente dell'Istat, so che ha poco tempo, però vorrei con lei intanto commentare questa telefonata. Il fatto che si trovi ancora singolare il mantenimento di un abbonamento internet, una connessione a casa, non trova che ancora ci sia un po' di cammino da fare? Viene considerato ancora come quasi un gadget, un lusso, qualcosa, un sovrappiù, come fosse l'abbonamento alle partite nei canali satellitari. Non dovrebbe essere esattamente così. Il cambiamento sta avvenendo in termini di cambiamento culturale verso ciò che è obbligatorio, non dico necessariamente vitale, ma obbligatorio è quello che invece è superfluo rispetto alle scelte di consumo. Questo lo vediamo ormai da vari anni. E certamente, come le diceva, l'accesso alla rete dà anche opportunità. Dobbiamo ricordare che il 55% dei lavori in Italia si trovano attraverso contatti in qualche modo personali, non vuol dire raccomandazioni, e siamo molto indietro ancora da questo punto di vista rispetto alle imprese che non cercano necessariamente curriculum in modo strutturato via internet, ma certamente si stanno aprendo. Ricordiamo che i paesi più avanzati analizzano i profili Facebook dei candidati per saperne di più. Esatto, ricordiamo che un italiano ha fatto un grande successo in Spagna costruendo proprio un portale per giovani che cercavano lavoro. Un'ultima considerazione volevo fare rispetto al tema della privacy, che naturalmente per l'Istat è fondamentale. Sono stato abbastanza colpito tempo fa da quello che mi diceva il garante per la privacy di una signora che gli ha scritto dicendo mia nipote ha trovato in rete il fatto che io anni fa ero stata violentata e che trovano in rete la notizia di essere stati soggetti a un processo, ma non l'esito del processo. Il cosiddetto diritto all'oblio, di cui si parla molto. Io credo che da questo punto di vista dobbiamo essere attenti, senza demonizzare la rete assolutamente, ma è vero che va tutto bene finché uno non ci si trova in mezzo. E quindi è importante che le regole vengano rispettate, regole nuove vengano messe in campo direi anche rispetto alla cultura che sta cambiando, ma non possiamo immaginare che la privacy venga completamente annientata soltanto perché alcune persone amano mettere sul loro profilo Facebook tutto ciò che vogliono. Diciamo, questo è il grande tema della contemporaneità, è questo: riscrivere alcune regole, considerato che l'umanità oggi è una sua espansione così massiccia, così importante, così potente. Questa è anche materia di Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto, ricordo, all'Università Milano Bicocca e docente di informatica giuridica. Andrea, quello che ha detto il presidente Listat è il grande tema su cui si ragiona tanto. È sicuramente vero, ma bisogna anche distinguere, no, tra dati che vengono messi online su di me, ma non da me, come probabilmente il caso della signora, probabilmente la notizia su un giornale riportata e poi indicizzata da Google o da qualche altro motore di ricerca, e invece dati che io coscientemente metto online. Insomma, adesso la nuova versione di Facebook, che già alcuni hanno adottato, no, crea questa storia della propria, questa cronologia della propria esistenza, e io francamente quando adesso metto in rete qualcosa, scrivo qualche cosa, penso che io potrò rivederlo tra 10 anni. In fondo io sto raccontando quella che è la mia vita, che tutti, a cui tutti gli altri potranno vedere. Lì c'è una differenza fondamentale. Io sto liberamente dando dei dati. Posso sbagliare, perché in alcuni casi, soprattutto i ragazzini, non hanno davvero idea di cosa sia opportuno o non opportuno mettere, e quindi questo è un problema culturale. Ricordi, ne parlammo in un mailog un anno fa. Certo. Certo. Crearsi una sorta di sopravvivenza, un'anima eterna digitale, che ci costruiamo noi, almeno non la fanno gli altri, come la signora violentata che rivede la vecchia sentenza e le fa male. E questo indubbiamente, quello è sicuramente un problema, appunto, riguardo però a dati che altri mettono su di noi. Io vedo proprio una differenza categoriale, no, tra dati che gli altri raccontano su di me e dati che metto io online. Quelli che metto io ho il diritto di metterli in qualche modo. L'idea di privacy è un'idea molto centrata sul soggetto. Sono io alla fine colui che determina qual è la mia privacy. Non dimentichiamo che il garante non è il garante della privacy, ma il garante del trattamento dei dati personali. È una cosa molto diversa, perché la privacy è una cosa che ha aspetti sociologici, culturali, legati anche alla cultura del soggetto. I dati personali sono un'altra cosa. Il garante non tutela la privacy del cittadino, tutela l'uso dei dati personali che a volte le aziende, le ditte o altre entità fanno. Però questo secondo me è una delle cose che si dovrebbero mettere effettivamente in evidenza. C'è un eccesso di BlackBerry accesi in questo studio. Provvedete allo spegnimento immediato, perché sennò altrimenti l'ipertecnologia, il fatto che siamo tutti ormai digitali acquisiti, crea qualche problema. Laila Pavone, ritorniamo un attimo ai dati dello IAB Forum rispetto a quello che abbiamo detto. Il presidente Listat ha dato qualche dato, ma rispetto a altri paesi, la nostra percentuale di crescita, secondo te, è adeguata oppure ancora siamo indietro? Perché noi ci stiamo beando del fatto che siamo tutti naturalmente digitali, io la trovo una grande conquista, però ancora forse c'è della strada da fare. Sì, c'è ancora della strada da fare. Tra l'altro, se me lo consenti, volevo comunicare ai nostri radioascoltatori che se ne hanno voglia, sul sito www.iabforum.it possono trovare tutti i documenti, materiali di presentazione, video di questa manifestazione, sì, che abbiamo molto organizzato. Molto corposa anche la ricerca, se non so, vuole scaricare, la trovo. C'è molto da leggere, volendo. Sì, lo dicevamo prima, c'è un tema di digital divide che in Italia è sentito molto, proprio per il fatto che in altri paesi, senza andare negli Stati Uniti, ma solo guardando in Europa, la percentuale, la penetrazione, cioè gli utenti che sono online rispetto alla popolazione italiana è nettamente superiore. Noi siamo intorno al 45% a seconda delle varie ricerche, delle metodologie che vengono utilizzate. Comunque, lo dicevamo prima, stiamo parlando di 26 milioni di italiani su circa 60 milioni che siamo, contro paesi dove ormai la gran parte degli utenti online, non voglio citare la Svezia o i paesi nordici dove i livelli sono praticamente al 100% di utilizzo, ma sicuramente noi abbiamo ancora molta strada da fare. E volevo introdurre o ritornare un secondo al tema di cui si accennava prima anche con il presidente dell'Istat, perché dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, e se vuoi questa manifestazione tende anche proprio a fare divulgazione, cioè a raccontare quelle che sono le opportunità e le potenzialità della rete, non solo e non tanto dal punto di vista del business, ma anche proprio parlando di quelle che sono le possibilità che gli individui, che noi italiani abbiamo utilizzando internet. c'è un problema di cultura, c'è un problema di consapevolezza, facendo riferimento alla privacy, ma anche facendo riferimento alla possibilità di utilizzare Facebook, ma non solo Facebook. Io credo che da questo punto di vista sicuramente le istituzioni, lo diciamo da diverso tempo, hanno una responsabilità. Non si può pensare di parlare, e molto spesso è così, e mi dispiace dirlo, ma bisogna essere onesti da questo punto di vista. Quando si guarda la televisione, spesso si sente parlare di internet un po' come il nostro radioascoltatore Marco. Sai, non c'è nulla di più vetero in Italia che la lettura televisiva della realtà, è ancora rimasta ai bei tempi di Ettore Bernabei, in cui esiste la televisione come uno strumento edificante, di grande intrattenimento. Lo dico prendendone tutte le responsabilità con coloro che si reputano i geni della televisione. La televisione è ancora nell'immagine, nella fotografia della realtà, è i passi indietro bestiali. Poi la televisione in realtà, come concepita oggi, sente la rete come un forte concorrente. Andrea, la televisione è vero, il problema era questo. Sì, ma questo era un dato che è venuto fuori da un'altra discussione che abbiamo avuto con Paolo Ferri, il mio collega in Bicocca, che si occupa in maniera specifica della dieta mediatica, come si dice, dei giovani. La verità è che i giovani non guardano più la televisione, o la guardano mentre usano il computer, o mentre Twitter, mentre c'è un uso diverso della televisione, diversissimo rispetto a quello di prima. Che YouTube è stato il grande contenitore di immaginario, esatto, che ha sostituito la televisione. Sì, sì. Questa cosa, che ha adeguato i tempi della vita di un ragazzo, cioè, dei suoi impegni, dei suoi divertimenti. In molti casi mi sembra che la televisione si percepisca ancora come centrale, come strumento informativo, invece non lo è più. Insomma, è uno degli strumenti informativi che soprattutto le nuove generazioni utilizzano. Ma io credo che tutti, no, poi abbiamo seguito un po' i fatti di Roma guardando la televisione, ascoltando la radio e vedendo i tweet. E penso questa sia la maniera migliore in cui uno si possa davvero informare da più punti di vista, usando contemporaneamente diversi media. L'impressione è quando guardi la televisione, se tu usi gli strumenti di rete, arrivano sempre un passo dopo, sono cose che tu già sai. Sì, poi non parliamo dei quotidiani, però contestualizza, perché ci sono le immagini che sono importanti in diretta, per carità. Questo ha una funzione anche la televisione, però ripeto, io ad esempio non ascoltavo l'audio in quello che accadeva, no? Perché l'audio mi era dato dei Twitter, tutto sommato. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer. Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. 800 24 00 24, ripeto la riflessione che ho fatto prima: quando parliamo di rete e come qualcosa di astratto, non collegato all'esistenza quotidiana, quindi invisibile, impercettibile, ma qualcosa da definire, chi hanno le persone che della rete hanno ancora un'immagine, un preconcetto molto distante da coloro che invece la usano normalmente, nemmeno si accorgono di essere connessi. Gabriella da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi hanno preceduto. Io devo dire che dissento su tutta la linea. Per me i social network sono un elemento assolutamente integrante della mia vita. Le faccio un esempio. L'anno scorso ho perso il lavoro, sono una manager, e grazie a un social network professionale che si chiama LinkedIn, io sono stata dove ho messo il mio curriculum vitae per esteso. Sono stata contattata da cacciatori di teste, ho trovato altre opportunità di lavoro. Lei comunque, quindi, Lina, non vedo il suo dissenso, rappresenta un caso esemplificativo del nuovo normale che stiamo definendo. Una signora che usa la rete tranquillamente, in una contingenza sfortunata della vita, grazie alla rete riesce a ritrovare una strada. È esattamente la voce dissonante era l'ascoltatore chiamato in prima parte, che diceva che... Non solo, su Facebook per esempio io ho ritrovato mie amiche di infanzia che avevo assolutamente perso nei meandri. Questa è una grande iattura, questo veramente, su questo mi dispiace per lei, però io faccio di tutto per evitare queste mortifere resumazioni delle mie passate vite, però ognuno se si vuol far male. Comunque grazie Gabriella. Roberto, provincia da Milano. Sì, buongiorno. Lei che ha ritrovato? No, io sono uno che fin dagli inizi ha sempre usato il computer, quindi quando è arrivato internet sono buttato già vecchio il sistema, ho usato il computer, io lì ho usato il computer, una cosa che nemmeno un ottantenne direbbe sai usare il computer, boh. No, cos'è il computer? Vecchio Commodore. Sì, vabbè, queste lacrimucce agli occhi, anche io usavo quando usavamo il primo browser, no, Netscape, no, che bello. No, volevo soltanto così dire che secondo me la fetta di popolazione che non utilizza internet è quella che buona parte ha paura anche di usare le carte di credito, ha paura del nuovo, insomma, ha paura di cambiamento. Su quelli vanno a prendere la pensione alle poste e si imbottiscono le mutande di soldi perché hanno paura di farsela accreditare e di usare il bancomat. Lo so, sono i primi a essere scippati. Secondo me un po' la retratezza ce l'abbiamo anche perché non ci sono state scelte politiche, tra virgolette, negli anni, ma questo parla anche della dirigenza delle grandi aziende, di fare grossi investimenti per l'utilizzo della rete, parlo della banda larga. Ecco, questo, Andrea Rossetti, su questo volevo dirlo prima quando parlava Lale Pavone. In realtà molte volte il gap è dato anche dal fatto che molti paesi che consideriamo più civilizzati di noi hanno una rete fantastica wireless ovunque si giri. Noi dobbiamo andarci a cercare. Io sono un po' contro la rete wireless, anche secondo me la wireless è una cosa che viene dopo il cavo. Il problema è che da noi, ma anche in paesi qui accanto a Milano, il cavo non c'è. Cioè, uno che vuole fare l'abbonamento alla DSL per portarsi una banda decente in casa non può farla perché la Telecom in generale, l'industria di non Telecom Italia, da che so la DSL sulla parte destra della via, ma sulla parte sinistra della via non si può fare l'abbonamento alla DSL. Questa è una cosa totalmente folle. Io credo che prima, appunto, io fui illuso sulla fibra ottica almeno 5 anni fa, che è arrivata dalla parte opposta della mia strada e da me non è mai arrivata. Succedono queste cose completamente folli. Recentemente peraltro il governo ha tolto, appunto, cos'era, 800 milioni mi sembra, dedicati allo sviluppo della rete per ridistribuirli in altre maniere vista la crisi che c'è. Però vendere le chiavette è ancora un buon business, quindi c'è questo problema delle chiavette che secondo me non sostituiscono in realtà una buona DSL perché la banda è sempre molto inferiore, però effettivamente c'è anche il sospetto che effettivamente in alcuni casi non vengano portati i cavi perché si vogliono vendere altri strumenti di accesso con alla rete. Con una rete ovunque efficiente nessuno dovrebbe più farsi dei piani tariffari per far funzionare il proprio iPad, il proprio iPhone. Enrico da Bologna, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Solo per dirle che ho sentito la frase che lei mi ha detto prima, cioè che si può rinunciare al cibo o limitare, diciamo, il cibo in funzione delle possibilità di accesso. Non è d'accordo. Mi è sembrato un pochino forte. Non è rinunciare al cibo. Dico, se ho un budget limitato, preferisco mangiarmi le radici e tenermi l'abbonamento alla rete, sì, però, piuttosto che mangiarmi la carne in scatola. Non è un messaggio molto bello. Perché non è bello? Scusa. Cioè, io uso anch'io il computer tutte le sere, ci dedico mezzo rete, un'ora. Ma la rete non è il computer è l'hardware. La rete è una dimensione dello spirito. A scacchi perché sono uno scacchista. Lei la usa da umarelle la rete, non è questo la rete, non è un gioco. La rete è uno strumento indispensabile a esistere, a collegarsi con il mondo, quindi anche a trovare lavoro, a trovare risorse, ad aumentare la propria qualità di vita. Non facciamo i moralisti, non è dico devo far morire di fame i bambini, papà dacci il pane, no, mi connetto alla rete, non è così. Dico, se c'è uno ha un budget limitato di una famiglia con delle difficoltà, la rete è uno strumento, può migliorare le condizioni con la famiglia. Ma non Andrea solo, cioè, qui si dimostra quasi l'adagio aristotelico, l'uomo è un animale sociale, la rete ci serve fondamentalmente, soprattutto in Italia mi sembra, essere sociale, cioè a restare in contatto con i nostri amici o con i nostri conoscenti, e questo credo sia un bisogno primario degli esseri umani, così come un bisogno primario mangiare, avere un posto dove rifugiarsi e bere. Lale Pavone, ti lascio a conclusione, gli ultimi 10 secondi. La rete è una finestra sul mondo, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto. Non si può pensare oggi di vivere senza uno strumento così importante dal punto di vista culturale, sotto ogni punto di vista, anche sociale. Avete sottolineato molte volte Facebook, ma io vorrei sottolineare anche tutta la parte di informazione, di contenuti, della quantità infinita di contenuti che noi abbiamo a disposizione, peraltro la gran parte di questi gratuitamente, proprio grazie al fatto che gli investitori pubblicitari oggi stanno destinando ad internet sempre più budget. Brava lei, l'ha chiuso bene, portato a quattro mulini. La rete è anche una grande paraculata per molti. Grazie Andrea Rossetti, grazie Lale Pavone, grazie quanto hanno ascoltato. Mi dispiace per gli umarelli che sono rimasti delusi dal fatto che io abbia soltanto pensato di togliere pane ai bambini per avere la lussuriosa, cattiva possibilità di accedere alla rete. À la foudre, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.